Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Ben ritrovati cari ascoltatori, il divorzio è dunque compiuto alla mezzanotte di ieri, tanti racconti anche nei GR, ci torneremo ovviamente, ma vorrei partire da un'altra notizia che questa settimana è emersa tra le tante. Dal 2004 ad oggi abbiamo appreso aumenta il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta, erano solo il 2,7% appunto nel 2004, oggi sono il 15,6%, lo sostiene il rapporto Italia 2020 dell'Eurispes. A noi questa cifra è sembrata incredibile, nel senso l'idea che quasi 16 italiani su 100 possano pensare che la Shoah non sia esistita ci sembra appunto inverosimile, eppure c'è sempre una spiegazione alle cose. Sentiamo il vice direttore di Eurispes Alberto Baldazzi. Questo numero che è sconvolgente, non solo apparentemente ma sostanzialmente sconvolgente, non significa però che il 16% degli italiani abbiano fatto il tifo per una cosa come la Shoah dalla parte dei nazisti fino al punto di negarla. No, in primo luogo c'è ignoranza, questo è l'elemento fondamentale che spiega anche perché a 15 anni di distanza l'ignoranza si sia aumentata anche per l'allontanamento dai fatti reali. 15 anni fa erano 60 anni, oggi non sono 75. Il tempo passa, la memoria è fragile, allora a questo punto come si fa a dire, come abbiamo poi sentito anche attraverso molti messaggi tutta la settimana, che noia sentire sempre la Segre, il suo ricordo. Bene, allora sentiamoci, 3 minuti di Liliana Segre, questa settimana, mercoledì al Parlamento Europeo, naturalmente fa parte di un discorso più lungo, molti di voi l'avranno sentito, io vi propongo questi 3 minuti. Si dà per scontato che popoli interi siano stati colpevoli, perché non fu solo il popolo tedesco, fu tutta l'Europa occupata dai nazisti, in cui, non so, parliamo della Francia, parliamo dell'Italia, non so molto di altri stati, in cui i nostri vicini di casa furono degli aiuti straordinari per i nazisti. Io parlo dell'Italia, dove abbiamo visto purtroppo i nostri vicini di casa che ci denunciavano, che prendevano possesso del nostro appartamento, del nostro ufficio, anche del cane qualche volta, perché era un cane di razza. Il cane era di razza. Questa parola razza, che ancora la sentiamo dire, e per questo dobbiamo combattere questo razzismo strutturale che c'è ancora, che c'è. La gente mi chiede: ma come mai ancora si parla di antisemitismo? La gente mi domanda come se io fossi, va bene che sono vecchissima nel mio 90° anno di età, ma non sono quella che sa perché c'è ancora l'antisemitismo, perché ancora c'è il razzismo, ma perché c'è sempre stato, perché era solo, non c'era il momento politico per poter tirar fuori l'antisemitismo e il razzismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito. Sì, è così, e poi arrivano i momenti, corsi ricorsi storici, arrivano i momenti più adatti, arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile di nuovo far finta di niente, è più facile guardare il proprio cortile, ma è una cosa che non mi interessa, ma perché mi deve interessare, non mi riguarda. E allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti. E questa espulsione dalle comunità nazionali fu dolorosissima, fu qualche cosa che andava molto al di là delle leggi, perché era appunto, era il tuo vicino di casa, io una bambina diventata invisibile, e questo mi è successo, che subito dopo la guerra, quando io per caso rimasi viva e tornai nella mia Milano con le macerie ancora fumanti, incontrai delle mie compagne di scuola che non mi avevano visto più, perché nel 1938 io avrei dovuto fare la terza elementare e ero evidentemente un pericolo molto grave sia per i fascisti che i nazisti, per cui decisero che i bambini ebrei di quella piccola comunità degli ebrei italiani, poche 40.000, 38-40.000 persone, quindi una piccola comunità, che fu vittima per un terzo almeno della Shoah, era assolutamente introdotta nella società, non si sentiva assolutamente diversa, e queste compagne rincontrate dopo 3-4 anni mi dicono: ma tu Segre, dove sei andata a finire che non t'ho più vista a scuola? Essere in grado di fare una scelta, questo serve la memoria, la storia, e quindi noi insistiamo nel ricordo, nella memoria di quanto è accaduto, ma in maniera molto meno drammatica, molto meno appunto anche oscena per il nostro comune patrimonio culturale, arriviamo a parlare della Brexit. È accaduta, è stato un percorso lunghissimo, divisioni, ieri sera ancora per le strade di Londra, varie manifestazioni contrapposte. Ve lo abbiamo raccontato e continuiamo a farlo nei nostri giornali radio. Ora facciamo invece un po' di punti su quelle che sono proprio le prospettive, prossime venture. Cominciamo da Bruxelles con Beda Romano. Chiuso il capitolo del divorzio, Londra e Bruxelles dovranno ora negoziare il futuro accordo di partenariato, vale a dire l'intesa che dovrà regolare i loro rapporti economici e commerciali. Non sarà facile. Prima di tutto i tempi sono stretti. Il periodo di transizione durante il quale nei fatti tra il Regno Unito e l'Unione Europea non cambia nulla nonostante Brexit scade alla fine dell'anno. In secondo luogo non mancano i temi controversi. Il Regno Unito vorrebbe un accordo di libero scambio con accesso pieno al mercato unico. I 27 sono pronti a concederglielo, ma solo se vi è allineamento regolamentare da parte britannica, ossia il rispetto delle regole europee nel campo degli standard industriali, degli aiuti di Stato, della libera concorrenza. Il Premier Boris Johnson per ora rifiuta, ritiene che un allineamento alle norme europee si tradurrebbe in una Brexit a metà. Difficile fare previsioni. A Londra si stanno affrontando ideologia e pragmatismo. L'obiettivo per parte europea è di mantenere l'unità dei 27, difendere i principi del mercato unico e, se possibile, preservare una relazione la più solida possibile con la Gran Bretagna. Molti ritengono che il negoziato sul futuro accordo di partenariato sarà più difficile di quello sul divorzio. È probabile. Non peraltro la missione diplomatica britannica presso l'Unione Europea si è rafforzata in questi ultimi 3 anni. Il numero dei funzionari è raddoppiato da 90 a 180 e rappresentano oggi non meno di 20 ministeri londinesi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Allora, come avete sentito, il negoziato che inizia lunedì potrebbe essere più complicato di quello lunghissimo che ha portato di fatto alla mezzanotte di ieri. Ma intanto andiamo a Londra, Leonardo Maisano ci racconta il punto di vista britannico. Il rintocco della Brexit l'altra notte si è udito forte e chiaro. Londra è formalmente e ufficialmente fuori dall'Unione Europea dopo 3 anni di contorcimenti politico-istituzionali. La Brexit in realtà non è affatto conclusa, anzi comincia ora e comincia con un interrogativo. Che ruolo cercherà di darsi Londra in un mondo ritornato a logiche di contrapposizione per blocchi, dove quindi l'Unione fa, e non solo di nome, la forza? Il primo banco di prova è l'accordo commerciale con l'Unione Europea, che dovrà essere trovato per volontà britannica entro la fine dell'anno in corso. Londra si ostina a chiamarlo negoziato, ma in realtà da negoziare non c'è poi molto. Ci sono regole per accedere al mercato interno, o ci si adegua nella sostanza o si sta fuori, con magari marginali eccezioni e solo se di reciproco vantaggio. Il sogno del Premier Boris Johnson di avere botte piene e moglie ubriaca, all'inglese have the cake and eat it, sbatterà contro l'evidenza di regole che non possono essere rese flessibili per accomodare Londra. E allora dove andrà a cercare alleanze il Regno Unito? Il pensiero corre agli Stati Uniti, con il rischio ben esemplificato da Philip Stevens in un lungo editoriale sul Financial Times che la relazione speciale anglo-americana si trasformi nella relazione servile anglo-americana, laddove a far da cameriere è il regno di Elisabetta. L'assetto commerciale futuro britannico indicherà da che parte cercherà di stare Londra. Un'incognita ancora oggi, avvio dell'era post-Brexit. I sussurri dicono che il progetto finale di Boris Johnson sia un modello assimilabile a Singapore, ovvero una città-stato con Londra al centro del sistema. È possibile, significherebbe il tradimento della periferia del regno, quella periferia che ha permesso a Johnson di vincere le elezioni di dicembre e che Johnson ha promesso di servire, riequilibrando lo strapotere politico ed economico della capitale. La saga quindi continua, il finale di un azzardo senza precedenti rimane un'incognita. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Grazie anche a Leonardo Maisano. Tra un istante ripartiamo dagli italiani di Londra, ma adesso gli aggiornamenti, perché Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Europa, Europa. Bentrovati da Gigi Donelli, da Laura Faggin che ha realizzato con me questa trasmissione, da Peter Bescappè in regia, a Londra dicevamo. Allora, Giorgia Scaturro è una collega che sentite spesso nella cronaca, ma è una collega che vive da anni a Londra. Allora le ho chiesto semplicemente di raccontare un po' in prima persona quello che sta accadendo e in che modo appunto lei rappresenti quello che poi è il futuro un po' incerto, un po' preoccupato degli italiani nel Regno Unito. Il sontuoso salone dell'ambasciata italiana a Londra è particolarmente gremito. Dopo oltre 3 anni e mezzo dal referendum sulla Brexit, l'atmosfera qui è mesta. Lo strappo dall'Unione Europea ora è una realtà che brucia. E stasera siamo stati invitati qui a parlare del nostro futuro come cittadini europei in un paese che ha scelto di sganciarsi dalla UE dopo 47 anni di scetticismi. Le cose non cambieranno molto per chi già vive qui o per chi vuole entrare nel Regno Unito entro la fine dell'anno. Ma dopo il periodo di transizione, che ne sarà dei nostri diritti? L'ambasciata continua a sollecitare noi italiani a registrarci al cosiddetto Settlement Scheme, il programma lanciato dal governo britannico per garantire diritti come quello a lavoro e sanità a chi ottiene la residenza permanente. C'è tempo fino al 30 giugno 2021 per presentare domanda di settled status sia per chi è qui da almeno 5 anni che per chi arriva entro il 31 dicembre 2020. Se per i più anziani l'ostacolo potrebbe essere tecnologico perché le registrazioni si fanno online, per altri, compresa me, dover provare il diritto a restare legalmente in un paese in cui si vive e si pagano le tasse da anni è una questione logorante. A fomentare le incertezze di alcuni, poi, è il fatto che il settled status non rilasci un documento fisico, ma è una prova di residenza solo digitale. L'intero sistema di immigrazione sarà digitalizzato in tutto il paese. I cittadini con il settled status faranno già parte del futuro, ci rassicura il sottosegretario agli interni Brandon Lewis, invitando noi europei a restare. Gli italiani regolarizzati in Gran Bretagna sono 291.000 sui quasi 700.000 connazionali che ufficialmente o meno vivono qui. Non siamo solo numeri, dice l'ambasciatore Raffaele Trombetta, ma persone che hanno bisogno di essere rassicurate che continueranno ad essere benvenute. Da Bruxelles, il compositore Dimitri Scarlato mi invia il coro toccante dopo l'approvazione della Brexit al Parlamento europeo. Dimitri, anche lui londinese di adozione, da anni si batte insieme all'organizzazione 3 Million per proteggere i diritti degli europei che vivono qui. Lo abbiamo raggiunto. Per quanto riguarda noi il Regno Unito, la cosa importante è far sì che nessuno rimanga fuori dal sistema di registrazione per essere considerato legalmente residente. Quella è la prima urgenza. Il settled status è diretta emanazione di quello che è stato scritto nel withdrawal agreement, un accordo di recesso, e rimane l'unico documento valido per poter essere legalmente residenti nel Regno Unito. Quindi è importante farlo, e con tutti i dubbi che molte persone possono avere. Adesso bisognerà osservare l'implementazione dell'accordo di recesso, perché quell'accordo che è stato siglato dalle due parti deve essere poi trasformato in legislazione. Quindi noi monitoreremo come verrà fatta questa implementazione, monitoreremo come si siano casi di discriminazione con il settled status, monitoreremo che il governo mantenga la parola, ovvero che nessuno venga deportato, anche in caso di persone persone che non sono riuscite a fare il status quedus entro le date previste, insomma, e saremo una sorta di watchdog, come si dice in inglese, cioè controlleremo, insomma, che il governo si comporti in modo corretto. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Domenico De Maio è il direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, che è l'ente del governo che gestisce in Italia i programmi europei e quindi Erasmus e, non trascuriamolo, il Corpo Europeo di Solidarietà. Intanto grazie e benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Dunque, in questa giornata di questo sabato 1 febbraio, dove di fatto celebriamo, anche se forse il termine suona un po' strano, ma insomma registriamo e raccontiamo quella che è il completamento di un processo iniziato oltre 3 anni fa, che ne sarà di Erasmus e dei programmi dei giovani che, a detta di tutti, di fatto sono in qualche modo il tessuto connettivo della cultura europea e anche forse uno dei più grandi successi del progetto europeo. Allora, dottor De Maio, la prima domanda è: quanti sono i giovani che ogni anno partecipano a questi progetti? Beh, guardi, parlando di solo dei ragazzi italiani, nel 2018 c'è stato un record, 850.000 italiani sono partiti per esperienze, di cui circa 340 sono studenti universitari. È importante sottolineare che il programma Erasmus dal 2014 in più è stato aggiunto, dal 2014 in poi è stato aggiunto un più vicino ed è diventato Erasmus Plus. Quindi significa non solo scambi universitari, ma anche scambi tra associazioni, la possibilità di fare dei tirocini all'estero per le scuole. 850.000 numero complessivo, 340.000 gli studenti universitari, quindi 510.000 chi sono? Quindi sono ragazzi che fanno esperienza nel capitolo gioventù. Il capitolo gioventù mette in connessione associazioni, quindi non sono due università che matchano, ma sono due associazioni, quindi ragazzi vanno in un altro paese e fanno attività di volontariato in altri paesi. Quindi diciamo ci sono tirocinanti che vanno in altri contesti lavorativi e fanno un'esperienza in un altro contesto, sono anche studenti delle scuole superiori che vivono un periodo in un'altra scuola con contatto con ragazzi provenienti da diversi paesi. C'è un'intera società europea di giovani in movimento. Allora, la domanda, ora occupiamoci per un secondo del Regno Unito. L'Europa da 28 passa a 27, messa così, al di là di tutte le considerazioni politiche, storiche di questa vicenda, però insomma il Regno Unito è un luogo importante linguisticamente, culturalmente. Che succede per gli Erasmus da e per il Regno Unito? Beh, allora, prima di tutto io vorrei rassicurare chi ci ascolta che fino alla conclusione del 2020 non cambia nulla, perché c'è un settennato in conclusione e quindi gli accordi, i negoziati sono stati già fatti. Quindi per i partenti tranquilli. Tranquilli, fino a dicembre 2020 non cambia nulla. Dal 2021 parte un nuovo settennato. Allora, la notizia che ci ha allarmato particolarmente qualche settimana fa è stata, diciamo, la bocciatura di un disegno di legge dell'opposizione che cercava almeno di blindare la partecipazione al programma Erasmus, cioè diceva: ok, usciamo dall'Europa, ma almeno il programma Erasmus preserviamolo. È stato bocciato questo disegno di legge. Ci sono state delle rassicurazioni del governo inglese sull'intenzione di rimanere nel programma Erasmus, di fatto c'è da ristabilire l'accordo. Quale sarà l'accordo che verrà chiuso anche per Erasmus? Quali saranno i tempi dal 2021 in poi? Quindi diciamo è un percorso non scontato. Tra l'altro c'è anche da dire che dal prossimo settennato si discute, ma c'è un ampio consenso in Europa su questo indirizzo, di raddoppiare almeno i fondi sul programma Erasmus, quindi significa che diventerà un'opportunità per il doppio dei ragazzi. Quanti studenti del Regno Unito utilizzano questi programmi? Sono tanti i ragazzi che dal Regno Unito partecipano. Noi siamo i quarti, consideri, ci sono i francesi, i tedeschi, gli spagnoli e poi ci siamo noi come in termini come numeri di partecipazione. Il Regno Unito, le dico che è una, diciamo, come dicevo, la Spagna è una delle mete preferite, però il Regno Unito comunque è una meta molto, molto ambita. C'è sicuramente da mantenere l'attenzione alta sui temi, certo, dei programmi educativi, perché purtroppo i giovani, tutti sono d'accordo che bisogna dare spazio ai giovani, aiutarli, però l'attenzione non è mai commisurata, i fatti non sono mai commisurati alle parole, quindi l'importanza dei programmi educativi anche nella cooperazione, nell'avanzamento dei paesi è necessario. Quindi io ringrazio per lo spazio che state dedicando a Brexit, ma al programma Erasmus, perché sono certo che il percorso sarà, diciamo, positivo per la permanenza del Regno Unito nel programma Erasmus, però è importante che tutta la comunità mantenga alto l'attenzione. Lo teniamo d'occhio. Grazie a Domenico De Maio, lo ricordo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, che è l'ente del governo italiano che gestisce i programmi europei rivolti ai giovani. Erasmus è il corpo europeo di solidarietà. Grazie di essere stato con noi. Grazie mille, buon lavoro. È tutto per questo appuntamento. Adesso, visto che abbiamo parlato fino a qui di Brexit e dell'attualità, vi ricordo GR24 tra un istante. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Un ottimo fine settimana a tutti voi.